Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome? Massimiliano Salini. Età? 42 anni. Nato a? Soresina, in provincia di Cremona. Eletto in? Nord-Ovest. Con quanti voti? Circa 28.000 preferenze. Partito politico? Forza Italia. Gruppo politico? Partito Popolare Europeo. Segni particolari? Di particolare è che ho la carnagione scuretta, nonostante la radice profondamente nordica di papà e mamma. Quante lingue parla? Bene, una, l'italiano, decentemente tre, italiano, inglese e francese. Competenze europee in 10 parole. Industria, economia in generale, trasporti, regimi fiscali. Benvenuto nella Uzone di Radio 24 da Silvia Bernardi. È arrivato il sì dell'Unione allo sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni. Cosa cambia per le industrie che si occupano di siderurgia, alluminio, raffinazione, cemento e chimica? Sulla carta molto, nella pratica purtroppo un po' poco. Ai noi la grande industria europea è sotto attacco in questo momento, sia perché l'Europa non sa difenderla, sia perché la minaccia, soprattutto cinese, è molto più forte della nostra unità politica. L'Unione Europea promuove la trasparenza fiscale e gli sgravi? L'Unione Europea promuove qualcosa che nell'ambito fiscale purtroppo non può realizzarsi per trattato, perché i trattati prevedono che ogni Paese membro abbia un suo regime fiscale. Quindi il problema degli sgravi è un problema del singolo Paese membro. Come si concilia quindi una politica fiscale europea con 28 politiche nazionali diverse? Non si concilia proprio. L'Unione Europea sta tentando di arginare questo che è un difetto per quanto riguarda l'Unione, cercando di evitare che si possano costituire cosiddetti paradisi fiscali. Se venisse riconosciuto lo status di economia di mercato alla Cina, cosa succederebbe alle imprese europee? Un disastro. Quasi 3,5 milioni di posti di lavoro persi e la storica prevalenza europea nell'ambito manifatturiero verrebbe definitivamente sepolta. Perché si è candidato? Per gratitudine, perché ho delle buone cose nel privato, cioè il mio lavoro e la mia famiglia, e ho incominciato a desiderare che anche altri potessero vivere la stessa esperienza positiva. Cosa ha pensato quando è stato eletto? Che bello, abbiamo vinto. In sintesi, il senso del suo impegno politico? Cultura d'impresa, centralità della famiglia, centralità dell'educazione. Il personaggio politico che più la ispira? Don Luigi Sturzo. Sicurezza e terrorismo, come si sta comportando l'Europa? Malissimo. Su sicurezza e terrorismo non sta facendo quello che dovrebbe fare. Oggi ci sono 28 paesi, l'uno contro l'altro armati. Tre aggettivi che la descrivono. Orgoglioso, deciso e non autosufficiente. Uzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.